Radio Toronto News. Radio Toronto News. Per Radio Cerrano News abbiamo in diretta il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, in merito all'allerta meteo, al quale chiediamo di farci un quadro della situazione, che veramente ringraziamo per essere con noi. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, la situazione a Pineto è la seguente: noi abbiamo attivato il COC ieri, non appena abbiamo avuto l'allerta media del codice rosso, ovviamente in modo preventivo. Il COC ha significato poi attivare tutte le procedure, quindi la disponibilità del personale sul territorio a monitorare, soprattutto i corsi d'acqua. Questo monitoraggio è andato avanti tutta la notte e tuttora va avanti. Attualmente i corsi d'acqua, il corso più grande, che è il Bomano, non desta particolare preoccupazione in questo momento, anche su contatti avuti con il centro funzionale della regione, quindi il Bomano al momento non rappresenta particolare criticità. Abbiamo una forte attenzione invece rispetto al torrente Galvano, che sta raccogliendo l'acqua dell'entroterra. Infatti qui non sta piovendo molto, ma ovviamente essendo un Galvano che raccoglie l'acqua dell'entroterra, quindi da altri, la portata d'acqua è tanta, quindi c'è un monitoraggio, è presente anche la provincia qui e l'abbiamo anche segnalato anche alla prefettura questa cosa. Per il resto abbiamo microfane sul territorio dovute purtroppo ai noi spesso per via di lavorazioni non corrette dei terreni. Su questo fronte siamo impegnati già da tempo, ovviamente con i privati, perché se da una parte il pubblico deve fare il proprio dovere, quindi garantire la pulizia dei canali, delle caditoie, cose che facciamo e stiamo facendo costantemente, dall'altro abbiamo bisogno della collaborazione dei privati. Ovviamente questo è un tema ricorrente, quella della lavorazione dei terreni, certo, collinari. Però per il resto abbiamo abbastanza sotto controllo. Ovviamente oggi le scuole sono chiuse, stiamo comunicando adesso alla cittadinanza che entro le ore 19 comunicheremo l'eventuale chiusura anche di domani delle scuole, in base alle l'evolversi della situazione meteo e delle condizioni stradali, ovviamente. Senta, sindaco, mezzi e forze dislocate nel comune? Chiedo scusa, non ho capito. Mezzi di soccorso e forze. Noi abbiamo mezzi privati in questo momento che stanno lavorando, ovviamente per i costi delle microfrane, quindi micro interventi sulle strade. Abbiamo sia mezzi nostri e sia mezzi privati, come spesso accade, in questi momenti, ovviamente volontari di protezione civile che sono sul territorio, attivati sia dal provinciale che da noi, che portano assistenza laddove ne sia bisogno. Sindaco, noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro, grazie per essere intervenuto su Radio Cerrano News, grazie. Per l'informazione che state dando. Grazie. Radio Cerrano News. Radio Toronto News.